perdute tutte, gioie e lacrime. Sono stato zitto, tu a parlare ti odio. Ho bevuto troppo, forse sì lo so, ma quel vino aiuta a capire. Ti odio, ti odio. Mi ami, non mi ami, ti odio. Tu mi hai preso tutto, ora tocca a me. Confiscarti il sonno, luce e pace, ti odio, ti odio. Spesso è la paura dell'oscurità, non il buio pesto che ci sbanda davvero. Ho creduto tanto e ora credi a me, il cammino è lento, troppo lungo davvero, davvero. E nel cielo gira una rondine e quel vento spira, troppo forte sicuro, sicuro. Siamo solo ombre su un muro, e il mio odio è un segno di maturità, chiuso dentro un sogno che ora grida ti amo, ti amo.